www.radio3pod.rai.it. Nasce prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi. Mentre nella fabbrica di polli le galline ovaiole continuano a sparar fuori uova a ritmo forsennato, Kappa e Drago vedono quello che non avrebbero mai voluto vedere. Allora, ripeto ancora una volta, per domani dovete aver piazzato tutto senza dimenticare niente, va bene? Madonna, che fatica! Non so se è meglio coordinarli sti lavori per mettere sulle ghigliottine o verificarli facendosi tagliare la testa. Pollo in sbattimento, ma cos'è tutta questa messa in scena? Beh, ghigliottina day, no? Il cosa? Una volta all'anno c'è ghigliottina day qua in fabbrica. Ma cos'è? Per macellare i polli, no? Ah. Cioè, invece di usare la solita macchina, no? Di quelle automatiche, che sono grigie, noiose e anche un po' disumane, per un giorno si usano le vecchie ghigliottine francesi, eh? Ah, francesi. Quelle di una volta, sì, sì, ma però sì. Sono originali, Sì, ma è un segno di inciviltà, scusa. Ma perché inciviltà? Ma scusami, qui è un giorno di festa per noi, Ci si raduna tutti intorno alle ghigliottine, no? Ah, che bello, sì. Poi ci si conosce tutti, no? Tutti, ti sta lì a parlare con gli amici. Certo. E poi ci sono i padiglioni, no? Delle specialità. Ma come? Eh sì, e beh, c'è il mangime speciale. E beh, la festa, Con i bambini e tutto. E beh, certo, tutti. Perché quel giorno lì le macchine sono ferme e funzionano solo le ghigliottine. Anche quelli che il giorno dopo verranno macellati nelle macchine. Ah, sono lì. Oggi e ghigliottina day sono qui per vedere. Per vedere gli altri macellati, magari ridere. Ma tanto loro non sanno niente, quindi si divertono tutti. Ma che bello. L'unico neo di questa giornata è che domani tocca anche a Joao. E a pensarci bene alla fine, forse mi c'ero anche un po' affezionato io, Ma vedi che anche tu un cuore ce l'hai, Paul. In fondo un cuore ce l'hai. Hai i fegatelli e hai anche il cuore. Ma io fama guai, ho tanta fama guai, e me ne andrò alle Hawaii a fare il surf, a fare il surf. Campagna Save Joao 2007. Un fallimento. Abbiamo lottato, sgomitato, fatto sentire la nostra voce, ma non è servito a niente. A niente. Campagna Save Joao 2007. Una disfatta. Abbiamo cercato di fare a meno di Amnesty International, di Gino Strada e della Croce Rossa Internazionale. E infatti è stato un disastro. Se almeno ve foste mobili da Assero. Dice che cazzo stai a fa, dico, guarda televisione. Dice che cazzo stai a guardare, dico, sto a guarda la Svizzera italiana. Dice, ma che te sei ammattito, ma guarda Tele Roma, dico, me sei rotta l'antenna centralizzata. Dice, cazzo me chiamavi te, portavo la scheda craccata. Semo, semo e Roma, Roma, e niente ce può cambiare. Ci piacciono i polli, bacchio le galline, non ci piace il baccalà. Semo, semo e Roma. questa la verità. La gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Si calmi, signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! La fabbrica di polli. Ecco, Pollastri, guardate un po'. Una sfista infinita di ghigliottine perfettamente oliate. Ah, che bello spettacolo. Allora, che allegria. E queste arrivano direttamente dalla Francia, eh? Vabbè, ma insomma, sono ghigliottine. Vabbè, ma è il governo francese che le manda, eh? Direttamente il governo francese. Sono di marca, eh? Le Coq Sportif. Coq Sportif. Ma scusa, in Francia quando è che è stata abolita la pena di morte? Perché non è tanto, mi sembra. Le nozioni di primo di classe. Pena di morte è stata abolita in Francia nel 1981. Ultima esecuzione è avvenuta il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 1977. Ma poi il presidente Mitterrand decise di smettere con ghigliottina e di trasformare Francia in vero paese europeo. Peccato che poi Francia ha buttato bomba atomica su Mururoa solo qualche anno fa. C'entra niente, ma io sono primo di classe. Io so tutto e io difenderò padrone di mondo. Ma è così, eh? Cioè, il governo francese, ancora lì, tutte le ghigliottine anni 60 e 70. Anni 70. E siccome non le usa più, le affitta a chi le chiede. Ah sì, ma non è come il rock and roll, perché siccome sono anni 70, allora sono belle. Sono strumenti di morte. Sono anche le ultime. Le ultime le hanno costruite negli anni 70, non c'era mica un caso. Vedi, subito. Ma io non lo so. E quindi c'è questo... Sono fatte bene queste qua. C'è questo mercato turpe. Sono fatte bene, Drago, sono fatte bene. Allora si possono noleggiare, eh? Ho capito. E chi le noleggia? Cioè, anche i privati, Cioè, uno anche fa una festa, affitta una ghigliottina dal governo francese. Se la uso meno, sono affari suoi. No, ma magari, sai, si può fare una cosa, mi viene in mente, una ghigliottina durante un party la puoi usare per tagliare, non lo so, la mortadella. Metti una mortadella sotto la ghigliottina e dici, signori, è ora mortadella! Esatto, bello, eppure bello. Un sigaro gigante. E ora, Tarek, e quindi, cioè, una volta le mandano in Ruanda, un'altra volta in Cina... E adesso sono qui in fabbrica. E funzionano perfettamente, Guardate qui che roba. Ma Polo, ma hai decapitato un altro Polo, ma... Quello lì. È uno spettacolo orrendo. Lo conoscevi? Ma sì, forse di vista. Vabbè, ma... Come? Mi sembra che fosse il 34, 66, 122. Cos'è, il numero di telefono? Ma no, è il numero di matricola, no? Ah. E tu hai tagliato la testa al povero 34, 66, 122? Beh sì. Sì, ma sai domani a quanti la tagliano? No. Noi domani è quasi 100.000, eh. 100.000? E la tagliano anche al povero Joao? Mi sa di sì. A meno che c'è sempre la possibilità dell'amministratore delegato. Ah. Che lui è l'unico che può dare la grazia, eh. Ah. Anche all'ultimo momento, eh. Ah sì? Eh sì, come nei film, eh. E lui può chiamare all'ultimo momento e dire, salvate quello lì. Ah, beh, speriamo bene. Speriamo, non lo so. Ma per Joao? Sì, per Joao. Non è che devi sempre pensare a te stesso. Cioè, Paul. Vabbè. No, per Joao dispiace un pochino anche a me. Però in fondo, tutti i polli sono mortali. Però c'è qualcuno che è più mortale di altri. Qualcuno che muore prima. Come Joao. Che cosa succederà adesso? L'amministratore delegato si ricorderà tra le tante cose da fare anche di telefonare per salvare la vita a Joao? Figurati. Lo saprete soltanto sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo decollato allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it, barlumen.com. La pena di morte Francia,